Con Davide Sacco, uno dei curatori della terza edizione del Lunga Vita Festival a Roma, in vari spazi, festival multidisciplinare dal 21 maggio al 2 settembre 2019. Davide, ben trovato. Ciao, buongiorno a tutti, ciao caro. Ci racconti? Siamo arrivati alla terza edizione con tanti cambiamenti, tante novità. Da quest'anno siamo ufficialmente un festival, ci possiamo sentire, infatti finalmente siamo Lunga Vita Festival. Abbiamo messo 3 anni per costruirci, per formarci e quest'anno ci sentiamo di autorizzarci, mettiamola così. Ci autorizziamo perché abbiamo molte più sezioni, abbiamo oltre ovviamente teatro, quindi prosa, danza, musica, una sezione, 2 sezioni dedicate al cinema, una insieme in collaborazione con Liceo Cervantes, tutto quanto sul cinema contemporaneo spagnolo, mentre un'arena dal nono municipio, diretta da Francesco Montanari e Bardani sul cinema in contemporaneo, e poi mostre con una mostra che abbiamo inaugurato in occasione sempre della conferenza stampa 30 Arti Uniti, una mostra che racconta il percorso di Teatri Uniti e delle persone che attorno a Teatri Uniti hanno costruito probabilmente le opere, le operazioni teatrali più importanti degli ultimi 30 anni. Poi una mostra al Teatro Valle su Bettelstein per la prima volta in Italia, uno dei massimi esponenti della cultura e del teatro in Europa. E poi Emma Dante, Stefano Massini, Gianmarco Sierino e Mauro Lamanna, Daniele Fabbri, Enzo Cosmi per la musica, Vinicio Marchione, Emma Dante, musica nuda, tanto, tanto, tanto, diciamo Come così. saranno suddivise le varie attività nei vari spazi in tutto questo periodo? Guarda, quest'anno gli spazi aumentano molto. Oltre il Teatro di Roma, in partecipazione con loro, apriamo la mostra, quella che vi ho detto 30 minuti, che è già all'Argentina, dove verrà seguito dalla proiezione il 30 maggio il Teatro al Lavoro diretto da Massimiliano Pacifico con Toni Servillo, che è un percorso in forma cinematografica di come Servillo è arrivato a costruire il suo spettacolo, che è quello d'Argentina, appunto, di La Prova, che è uno spettacolo straordinario che ha girato tutto il mondo. Poi continuiamo con il Museo delle Civiltà, altro nostro partner, dove apriremo una grande factory dedicata all'Ipsecamp sul teatro danza. Poi dal 13 di luglio torneremo in Accademia Nazionale di Danza, dove siamo stati già l'anno scorso, e apriremo il cartellone dando la Casa del Contemporaneo. Apriremo proprio con il premio il Tricamp in collaborazione con la compagnia Camp, e da lì in poi saranno 10 giorni di spettacoli, in 2 spettacoli al giorno, dove il primo sarà un tipo di linguaggio, appunto, che va da Stefano Verra, Stefano Massini, a Emma Dante, a Enzo Cosimi, a Vinicio Marchioni, Musica Nuda, la Mobile Ballet Company, e poi si continuerà la sera con tutto un percorso legato alla stand-up comedy per raccontare il contemporaneo anche in una chiave molto più sorniona, molto più rapace su questo, come facevano i giullari una volta. E anche lì a Renzo Londini, Bardani Montanari, Francesco De Caro, Collettive. E poi chiuderemo l'ultimo grande appuntamento per il percorso sempre internazionale con Daniel Pennac il 2 settembre al Teatro Argentina. Per quest'anno il festival si allarga non solo di spazi ma anche di paesi, continua il grande gemellaggio con la Spagna insieme al Festival d'Almagro con il sostegno dell'Acción Cultural, ma e Liceo Cervantes ovviamente, ma quest'anno puntiamo ancora più lontano, oltre oceano, con una partecipazione importante con l'ambasciata australiana, dove porteremo in Italia Edith Andre, che è la più giovane artista in questo momento al mondo, uno dei grandi fenomeni culturali mondiali. E ancora altri spazi per un discorso di inclusione, come il mercato di testaccio, dove formeremo una radio stabile per tutto il periodo del festival, inclusioni per le strade, nelle piazze, un percorso importante che stiamo costruendo con il nono municipio, insomma, un festival molto molto articolato. Ecco, riassumendo, qual è la filosofia di fondo? Noi la portiamo con il titolo, il sottotesto di quest'anno è l'evoluzione sia con te. Credo che le due parole cardine di questa edizione sono inclusione ed evoluzione, che sono due parole che immesse insieme sono uno spiraglio di salvezza in un momento così complesso. Mentre i porti chiudono, mentre slogan, soprattutto nel mese che vedremo avanti, spesso stupidi, aumenteranno sempre di più e rimbomberanno nelle nostre case, noi crediamo che semplicemente stando insieme, incontrandosi e creando una città culturale, una città nel senso largo del termine, riusciremo ad evolverci. Se pensiamo all'evoluzione, se decidiamo di evolvere, quindi incontrando l'altro, facendo sì che gli agenti esterni, che l'altro, sei tu, sono io, sono una persona che incontriamo per strada, si incontrano, possiamo cambiare o quantomeno combattere parecchie cose. In chiusura ci lasci i riferimenti web per saperne di più? www.lungavitafestival.com e naturalmente tutte le pagine che sono Tradizione Teatro e Lunga Vita. Un abbraccio, un in bocca grazie al lupo, a risentirci sempre, grazie presto. Grazie a voi, grazie a te. Un abbraccio, ciao ciao.